giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In questa edizione del giornale radio il caso della donna ucraina trovata morta ieri sera in uno stabile a Trieste, ma anche l'incendio che sempre ieri sera a San Dorligo della Valle ha distrutto una casa. E poi l'inizio del campionato oggi per l'Udinese. Potrebbero arrivare già all'inizio della prossima settimana i primi risultati dell'autopsia disposta ieri notte dal magistrato Pietro Montrone sul corpo della donna, una rifugiata ucraina, trovata morta in uno stabile di via Fabio Severo a Trieste. Sul corpo non ci sarebbero segni visibili di violenza, ma tutte le ipotesi restano aperte. La rampa di scale che dal settimo piano conduce al sottotetto sulla quale è stato rinvenuto il corpo sottoposta a sequestro. Pochi condomini di passaggio e nessuna voglia di parlare di quanto accaduto. Si presenta così il condominio di via Fabio Severo 20 a Trieste, il giorno dopo la scoperta nelle parti comuni del corpo di una donna ucraina di 45 anni, Zanna Russu, che era alloggiata in un appartamento dell'ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, assieme ad alcune connazionali. Sulle cause della morte tutte le ipotesi sono al momento aperte. Venerdì scorso la donna non si era presentata all'appuntamento con lo psicologo e da allora gli operatori dell'ICS, che l'avevano vista l'ultima volta mercoledì, avevano cercato invano di rintracciarla. Ma non hanno fatto in tempo a presentare una denuncia di scomparsa. Il corpo della donna è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su una scala del condominio, 3 rampe più in alto rispetto all'appartamento nel quale viveva, situato al 6° piano del palazzo. La donna aveva addosso la sola biancheria intima, mentre poco distanti sono stati trovati la vestaglia e la borsa rovesciata. Dal primo esame esterno del corpo non è stato possibile stabilire le cause del decesso e per questo il magistrato di turno Pietro Montrone ha disposto l'autopsia. Zanna Russu era arrivata in Italia circa 1 anno e mezzo fa assieme ai 2 figli, un ragazzo che ha ora 19 anni e una ragazza di 10. In una prima fase la famiglia, inserita in un programma di protezione temporanea, era stata presa in carico dalla Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo. In seguito alla scadenza della convenzione con la Fondazione, le persone inserite nel programma erano state affidate all'ICS. In entrambi i casi la 45enne era stata seguita con particolare attenzione in quanto fragile e affetta da problemi di alcolismo. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Pompieri al lavoro fino a questa mattina in una frazione di San Dorligo della Valle, dove nella notte è stato spento l'incendio che ha devastato una casetta di 2 piani. Gli occupanti, una donna anziana e il figlio, sono finiti all'ospedale, la prima per un'ustione, il secondo per intossicazione da fumo. Un incendio ieri sera ha completamente incenerito una abitazione di 2 piani a Crogole, una frazione di San Dorligo della Valle. 2 le persone ricoverate all'ospedale di Catinara. Una donna anziana ha subito leggere ustioni, mentre il figlio è stato intossicato dal fumo. I vigili del fuoco di Trieste e di Muggia sono intervenuti dalle 21.15 con 2 squadre e 2 autobotti a dare l'allarme ai vicini che insieme ai volontari della Protezione Civile di Dolina hanno tentato di limitare l'intensità del rogo. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della casa e hanno subito avvolto la struttura in legno del tetto. L'intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio coinvolgesse anche altre abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso mezzanotte, mentre in mattinata sono state smassate le macerie. I vigili del fuoco hanno anche controllato l'eventuale presenza di monossido di carbonio nelle case vicine. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e la polizia. Sono in corso indagini per capire le cause dell'incendio. Trieste, Walter Scherk, TGR del Friuli Venezia Giulia. I sindacati degli infermieri NURSS in the Will denunciano l'ennesima aggressione in pronto soccorso. È accaduto stamattina intorno alle 6 all'ospedale di Monfalcone, dopo un episodio non ancora chiaro accaduto in un appartamento di Vermegliano, dove la polizia sarebbe intervenuta all'interno, alcune persone alterate dall'assunzione di droga. Una donna in particolare presentava ferite di arma da taglio ed è stata portata in pronto soccorso. Qui poco dopo è stata raggiunta da un uomo già noto alle forze dell'ordine, che ha minacciato i sanitari presenti e ha divelto una porta prendendola a calci. I sindacati denunciano che per far intervenire la polizia siano state necessarie 2 telefonate da parte degli infermieri. Questo, scrivono, è inaccettabile. Will e Nursin chiedono pertanto ancora una volta il ripristino di un presidio di polizia all'interno dell'ospedale sulle 24 ore. E oralmente il cielo in questo momento è poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 29 gradi e mezzo. A Gorizia 30 gradi, Pordenone 29, Udine 27 e mezzo, Tolmezzo 21, Forni di Sopra 20 e mezzo, Piancavallo 19, Tarvisio 18 e mezzo, Sappada 16, Monte Lussari 15, Monte Zoncolan 13 e mezzo, Lignano 30, Grado 29, con una temperatura del mare in entrambe le località di 29 gradi. Le previsioni ancora dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: variabilità con temporali sparsi alternati a fasi di tempo migliore. I temporali potranno essere localmente forti, ci sarà un primo calo delle temperature massime. È in corso un'allerta gialla della Protezione Civile e in tarda mattinata ci sono stati i primi temporali a nord di Udine, potrebbero nell'arco della giornata essere anche molto forti con colpi di vento. L'allerta è prevista fino a mezzanotte. Passiamo allo sport con il calcio. L'Udinese esordisce oggi in campionato allo stadio Dall'Ara di Bologna. Archiviate con cura nell'album dei ricordi le emozioni olimpiche, a cominciare dall'oro di Navarria e Rizzi, lo sport friulano si rituffa nel calcio, mandando invece rapidamente in cavalleria, o almeno si spera, la polemica legata alla pubblicità della maglia della Triestina sui maxi poster davanti allo stadio Friuli, che verranno rimossi con tante scuse per prima cosa domani mattina. E il calcio giocato racconta di un Udinese che comincia il campionato a Bologna contro la squadra rivelazione dello scorso campionato, che però ha cambiato molto a partire dall'allenatore. Anche il tecnico dell'Udinese è nuovo e ha avuto modo di sperimentare l'affetto dei suoi tifosi fin dalla prima uscita pubblica in una piazza gremita. Rugnaic deve però giocare la partita del Dall'Ara senza Alexis Sanchez, tornato nella città dove è cominciata la sua carriera, ma ancora a corto di allenamenti. E, notizia delle ultime ore, a Bologna non ci sarà nemmeno Samardžić, per il cui trasferimento all'Atalanta manca solo l'ufficialità. L'Udinese dovrebbe guadagnarci 20 milioni più 5 legati ai bonus, perdendo però un elemento di sicura classe. Per il resto la squadra anti-Bologna dovrebbe essere grosso modo quella già vista in campo contro l'Avellino in Coppa Italia. Lucca centravanti, spalleggiato da Toven e da Brenner, e difesa a tre formata da Perez, Biol e Giannetti. Fischio d'inizio alle 18.30 a cura di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra di Serie A. Per lei un solo precedente con i bianconeri, proprio a Bologna, e non esattamente di buon auspicio. Si giocò il 2 aprile dello scorso anno e l'Udinese perse per 3-0. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo, a proposito della partita dell'Udinese, che per consentire la radiocronaca, l'edizione del giornale radio delle 18.30 sarà anticipata alle 18.05. Passiamo al traffico. Autostrade Alto Adriatico ha classificato la giornata di oggi con il bollino rosso. Al momento si segnalano code e rallentamenti alla barriera dell'Isert in direzione Venezia, come anche a Palmanova, sempre in direzione Venezia. In direzione Trieste c'è invece un incolonnamento in entrata alla Tisana. E ora, prima di chiudere, alcuni appuntamenti musicali. La nuova orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, con il fisarmonicista Gianni Fassetta e la violinista Giada Visentin, terrà un concerto intitolato La musica del cinema anni 60, con brani scelti tra famose colonne sonore di film, a Gorizia, a Palazzo Attems, alle 20.30. Per la rassegna Carni Armonie, Lorenzo Ruppel si esibirà all'organo in musiche di Handel e Bach, come gli Ansalapi di San Giorgio Martiri. Altro evento, il concerto Face to Face della Tomat Band, con un tributo a Elton John e Billy Joel, che si terrà a Tarvisio in Piazza Unità alle 20.30. La rassegna multidisciplinare itinerante Palchi nei Parchi prosegue con l'esibizione del trio Mineur nel concerto Alpi in Musica, che si terrà a Malborghetto a Palazzo Veneziano alle 18. Il concerto lirico con il soprano Anna Viola e il tenore Alessandro Cortello proporrà un repertorio pucciniano con composizioni di celebri autori dell'epoca come Leoncavallo e Mascagni, a Pordenone al Parco di San Valentino alle 19. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Riccardo Ostojic. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona domenica e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.